In tutte le culture esistono dei periodi di tempo particolari consacrati a conviti gioiosi, sia civili che religiosi. Nella Bibbia abbiamo il sabato, la festa delle trombe, il giorno delle espiazioni, la festa delle settimane, la festa delle capanne e tante altre feste che l'Eterno Dio aveva stabilito in suo onore. Poi vi sono feste che si celebrano in tutto il mondo, che non hanno una precisa collocazione nella parola di Dio, ma che comunque sono istituite per ricordare e celebrare eventi religiosi. Una di queste, per esempio, è il Natale. Anche se si ha la certezza che Gesù non sia nato il 25 dicembre, si è stabilita questa data come giorno della nascita di Gesù Cristo. Fra le tante festività, ne esiste una che coinvolge anche i bambini e che ha a che fare con il campo religioso. Essa è degna di considerazione, perché il suo aspetto innocuo lede e può ledere l'aspetto spirituale non solo dei bambini ma anche dei grandi. Sto riferendomi alla festa di Halloween. La festa di Halloween, che significa Vigilia di tutti i Santi, trae origine dalle tradizioni pre-cristiane dell'Europa celtica, dove il 31 ottobre era al contempo il giorno della fine dell'estate e della vigilia dell'inverno, ma anche, secondo la credenza popolare, il momento in cui dalla sera e per tutta la notte le anime dei morti tornavano sulla terra, accompagnandosi a streghe, demoni e fantasmi. La testimonianza di quest'ultimo aspetto di questa ricorrenza, sopravvissuta anche dopo l'avvento del cristianesimo, si riscontra nei sinistri travestimenti di cui si servono i bambini per girare di casa in casa, chiedendo dolci e monetine. Proprio per la sua natura religiosa, Halloween è una festa dedicata al diavolo, alle potenze malefiche. Non importa che si faccia per scherzo o sul serio, ma chi festeggia questo giorno? Festeggia il male, festeggia ed è festeggiato dagli adoratori di Satana. In certi luoghi, ancora oggi, vengono sacrificate delle persone a Satana. In certi paesi delle persone venivano messe in una grande cesta e bruciate vive, e poiché certe pratiche oggi verrebbero pubblicamente condannate, non è escluso che si facciano ancora di nascosto. Non possiamo quindi pensare, vedere o accogliere festosamente la festa di Halloween e rimanere indifferenti. Chi ha posto fede in Cristo deve in tutti i modi prendere una posizione, perché non prendendola si favorisce e si alimenta una pratica che può fare solo del male nel cuore delle persone. I bambini, che ovviamente sono all'oscuro di tutto questo, trovano il giorno di Halloween affascinante e divertente, essendo ovviamente all'oscuro di ciò che in esso si evochi. Come se non bastasse, anche molti insegnanti desiderano nutrire l'immaginazione dei ragazzi e aprire nuove vie all'espressione diversificata, senza rendersi conto però che queste attività pedagogiche esaltano la paura, l'irrazionale e la morte. Se poi si aggiungono certe serie televisive, film o cartoni animati che presentano fantasmi, vampiri e talvolta serial killer, come possiamo pretendere che la società, bambini compresi, non siano in preda alla depressione, alla violenza e alla morte? Noi nutriamo la mente dei bambini e degli adulti di sentimenti negativi e poi pretendiamo che diano dei buoni risultati. Ma com'è impossibile annaffiare un fiore con del veleno e pretendere che faccia un buon profumo? Così è impossibile proporre e imporre ad una mente razionale del veleno morale e pretendere, meno perché di questo che si tratta, meno che nella società non ci sia paura e delinquenza. Secondo alcune statistiche in rete web ci sono almeno 400 gruppi virtuali di adoratori del demonio. Ci sono testi inneggianti al satanismo, all'orgia, al sesso con bambini e a perversioni sadiche. Grazie ad internet le persone che hanno avuto comunque un contatto con circoli satanisti sarebbero... Anche se tutti denunciamo queste cose, pochi sono coloro che fanno qualcosa per evitare che vengano perpetrati simili orrori. Da una parte si fa del moralismo, si condannano pubblicamente certe pratiche, ma poi di fatto si rinnega ogni cosa non prendendo una netta posizione di rifiuto per la festa di Halloween. Così, ancora una volta, bisogna ricordare che si è a favore del bene, o si sceglie ciò che è giusto, solo se si prendono posizioni precise di condanna nei confronti del male. Non è sufficiente condannare chi contamina la terra e l'aria, ma se il mio vicino usa dei prodotti inquinanti, io devo far presente il suo errore e in seguito, se continua, sono chiamato a far presente il fatto alle autorità competenti. La festa di Halloween è pienamente accettata e incoraggiata nella nostra società, visto che le autorità non vi si oppongono e che, non atteggiandosi contro, mostrano di essere favorevoli a che sia prodotta la paura, la superstizione e la morte nel popolo. Nessuna autorità direbbe che è a favore della paura e della superstizione sbagliata, ma di fatto lo è se approva la festa di Halloween. Come in tutte le cose a valere, non sono le parole, ma soprattutto i fatti. Se mia moglie mi dice che mi ama e poi mi tradisce e si occupa di un altro, le sue parole non hanno nessun senso. Forse l'inganno più frequente in merito alla festa di Halloween è quello di non dare importanza a ciò che si sta facendo. Molti sono a conoscenza che dietro a questa festa ci sono intenzioni malefiche, ma scuotono le spalle dicendo che in fondo sono solo simboli. Dopotutto, si dice, si tratta solo di zucche, di pipistrelli, di candele, di costumi e di scherzi. Questo è l'inganno. Sono solo simboli? Proviamo a bruciare in piazza la bandiera italiana? Proviamo a sputare in pubblico sopra ad una fotografia del Presidente della Repubblica? Non sono solo simboli o raffigurazioni del vero? Per quanto se ne dica, i simboli hanno la loro importanza e la raffigurazione di un diavolo che sorride, di una zucca svuotata e illuminata dopo aver inciso un faccia umana, un gatto nero, e delle streghe. Non solo sono simboli, ma incidono nella mente delle persone, e soprattutto nei bambini, concetti demoniaci che producono disperazione, paura e morte. Se la festa di Halloween producesse dei buoni sentimenti di carità, di sicurezza, di amore per il prossimo, si potrebbe anche soprassedere. Ma poiché tale festa ha dei risultati negativi, è da rifiutare in toto. Nei paesi anglosassoni vi era un tempo l'usanza che i maghi mettessero davanti alle case delle zucche vuote con una luce al loro interno e gridassero «Regalo o maledizione?» Chi non sacrificava qualcosa a Samhain, il dio dei morti, veniva maledetto. Ecco da dove proviene il costume di svuotare delle zucche, di fare degli occhi e bocca, di mettere una luce dentro, di travestirsi da spettri e andare nelle case a chiedere l'elemosina, pratiche che i bambini trovano divertenti ma che purtroppo esaltano il male. Halloween resta la notte di Satana e del male, anche se chi partecipa a tale festa dice di non crederci. Detto questo, chi teme Dio e la sua parola, chi desidera avere una vita serena, chi desidera trasmettere la serenità ai figli e al prossimo, non ha molto da scegliere. Non deve partecipare per scherzo o per davvero a tali divertimenti macabri travestendosi e non indurre nessuno a mascherarsi. È un atto di amore non solo aiutare le persone, ma anche non indurle a compiere cose che possono danneggiarle. È impossibile per chiunque aiutare le persone smarrite, parlargli di pace e poi indurle a frequentare la festa di Halloween. È come dare ad un affamato un cucchiaio di pasta e uno di veleno. Per quanta pasta si dia, il veleno avrà il sopravvento e morirà. Chi partecipa alla festa di Halloween è destinato a far morire i suoi buoni sentimenti e propositi. Abbiamo addotto delle ragioni umane più che forti per rifiutare la festa di Halloween, ma esiste una ragione ancora più potente ed è il divieto assoluto della parola di Dio. Queste sono le parole ancora valide che l'Eterno rivolse al popolo di Israele prima che entrasse nel paese di Canaan. Quando entrerai nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta presagi, né chi pratica la magia, né chi usa incantesimi, né un medium che consulta spiriti, né uno stregone, né chi evoca i morti. Perché tutti quelli che fanno queste cose sono in abominio all'Eterno, e a motivo di queste abominazioni l'Eterno, il tuo Dio, sta per scacciarli davanti a te. Tu sarai integro davanti all'Eterno, il tuo Dio, poiché quelle nazioni che tu scaccerai hanno dato ascolto a indovini e a maghi. Ma, quanto a te, l'Eterno, il tuo Dio, non ha permesso che tu faccia così. Deuteronomio 18.9.14. L'ordine di Dio è chiaro: tutto ciò che appartiene all'occulto, all'aldilà, deve essere categoricamente rifiutato, non praticato, né perseguito, perché ciò che è occulto appartiene all'Eterno. Deuteronomio 29.29. L'uomo che si relaziona con l'aldilà, che ha contatti con il mondo degli spiriti, ha solo due possibilità: o si relaziona con Dio, o con il diavolo. E poiché una relazione con Dio è pace, armonia, gioia, sante certezze, tutto ciò che procura terrore, paura, angoscia, non può che provenire dal maligno. Sta scritto nel libro dei Proverbi: la paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Proverbi 29.25. Che saggezza ci è nel preparare una trappola alla gente? Che vantaggio proviene dall'occupare la mente di stupide superstizioni, di streghe, di spiriti di morti che ritornano per creare confusione e caos tra i viventi? Di stupidaggini e stoltezze ce ne sono a sufficienza, perciò è indispensabile predicare il bellissimo messaggio del Vangelo che presenta Cristo Gesù, il padrone dei morti e dei viventi. E chi confida in Lui possiede l'amore perfetto che caccia via la paura. 1 Giovanni 4.18. Se qualcuno nonostante tutto desidera rivolgersi ancora al mondo malvagio dell'occulto, è libero di farlo, ma non è libero di scegliersi una vita serena. Tutti abbiamo la libertà di scelta, ma nessuno è libero di scegliersi le conseguenze delle sue scelte. Posso scegliere di bere del veleno, ma non posso scegliere né pretendere di volere star bene. E così è del mondo occulto. La festa di Halloween conduce alla morte e alla paura, Cristo alla vita e alla pace. Non si tratta che di scegliere. Dicembre 2005. Ellero.